Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Le preoccupazioni per i debiti sovrani, le dimissioni del capo economista della Banca Centrale Europea, il tedesco Jürgen Stark, il downgrade di due banche francesi, la richiesta all'Italia di abbassare il budget dell'Unione Europea. Questi e altri i temi della cronaca finanziaria al centro di questa nuova puntata di Economia in Europa. La settimana si è aperta con un nuovo allarme sui mercati finanziari, a preoccupare sempre il rischio di default della Grecia e la sfiducia nei titoli di Stato della periferia europea. L'Italia colloca i suoi titoli, ma è costretta ad offrire rendimenti più elevati. Ma le situazioni di Grecia, Italia e Spagna possono davvero essere accomunate? Sentiamo l'analisi di Fabrizio Fiorini, responsabile investimenti Dialetti GSTL SGR. I giorni scorsi avevano lasciato presagire che questa settimana sarebbe stata difficile per i titoli del Tesoro italiano. Tutto sommato, i rendimenti offerti sono in linea con le quotazioni che erano antecedenti all'asta stessa. Il problema andrebbe un po' allargato a se hanno senso queste quotazioni oppure no. Ovviamente rendimenti del 4% su scadenze a un anno sono rendimenti che tradiscono una sfiducia nei titoli italiani, ma che probabilmente tradiscono una sfiducia nei titoli della periferia europea. E quindi a questo punto occorre allargare ulteriormente il discorso. Cosa può aver fatto fare questo salto ai titoli italiani nell'ultima settimana o negli ultimi 15 giorni? E qui arriviamo a parlare di tutto ciò che è rumore di fondo politico, che è la vera causa di questa avversione verso i paesi periferici. Ormai Grecia guida, Italia e Spagna seguono, come se si trattasse dello stesso tipo di problema. La Grecia è sicuramente un problema, è un problema che è stato ingigantito da errori politici, direi macroscopici, e che oggi ci troviamo ancora a pagare sul fronte dei titoli italiani e spagnoli, indipendentemente da quelle che sono le azioni di politica interna in Italia e in Spagna, dove comunque le manovre sono state fatte e il pareggio di bilancio è stato quantomeno promesso e ipoteticamente anche messo in Costituzione. Molti dei suoi colleghi giustificano il fatto che l'Italia sia da qualche settimana molto più bersagliata dalla Spagna per il semplice fatto che c'è stata la differenza di una decisione politica appunto spagnola con Zapatero, che ha deciso appunto che lascerà il suo incarico, situazione che invece non si ripete anche in Italia. C'è solamente questo dietro a questo cambio di atteggiamento che gli investitori hanno avuto nei confronti dei titoli italiani appunto e nei confronti dei titoli spagnoli? Per quanto riguarda il rapporto relativo fra Italia e Spagna, sicuramente questo c'è. La Spagna ha intrapreso un'azione decisa. Il mercato chiedeva 6, hanno offerto 8. Gli italiani purtroppo si contraddistinguono perché offrono sempre un po' a risparmio esattamente quello che il mercato chiede. Il mercato chiedeva una manovra da 40 miliardi, l'Italia ha offerto 40 miliardi. Non si è guardato alla qualità, ma si è guardato più alla quantità, come se questo potesse essere sufficiente. Il risultato è che chiaramente l'Italia ha sofferto in termini relativi contro la Spagna. Però il discorso lo dobbiamo allargare, questa è una parte della verità. L'altra parte, quella più importante, è che la Spagna e l'Italia vanno insieme e vanno ad allargare nei confronti della Germania, e quindi qui c'è un discorso diverso che è indipendente da quello che fanno i governi dei due paesi, ma riguarda il progetto euro, la sostenibilità del progetto euro, l'approccio e le conseguenze di quello che sarà la soluzione al caso greco. E quindi occorre distinguere le due cose. In termini relativi l'Italia ha fatto peggio della Spagna perché ha affrontato peggio il problema del bilancio, e in termini assoluti la periferia viene trattata, diciamo, a sconto rispetto al resto delle obbligazioni europee, perché c'è un problema che potrebbe discendere alla periferia dal caso greco. Le dimissioni di venerdì del capo economista della BCE, Jürgen Stark, in dissenso verso il programma di acquisto di titoli dei paesi in difficoltà, è solo l'ultimo dei tanti segnali di una certa rigidità mostrati negli ultimi mesi dalla Germania. Sentiamo anche su questo punto l'opinione di Fabrizio Fiorini. La mia impressione personale è che gran parte della colpa di ciò che stiamo vedendo in questi mesi, ormai non è più giorni, sia da attribuire alla Germania. Un atteggiamento diciamo ortodosso, fin troppo ortodosso, che ha travalicato purtroppo i confini della Germania arrivando a colpire l'Europa, che è un comportamento che non ha portato a nessun tipo di risultato né all'interno, a lei dal punto di vista politico, né all'esterno dal punto di vista della coesione politica, e non solo politica ma anche fiscale europea. Ne è un caso, e parto dalla fine, il caso Stark ne è un esempio. I tedeschi si sentono liberi di agire indisturbati all'interno dell'Unione Europea. Stark si permette di dimettersi dal Consiglio della Banca Centrale Europea, lasciando a Draghi una situazione di difficile gestione, permettendosi di poter dire quali sono le ragioni del suo dissenso, proclamandole apertamente e, diciamo così, alimentando la speculazione, in quanto lui ha riferito: io mi dimetto perché non sono d'accordo con l'acquisto di titoli periferici da parte della Banca Centrale Europea. Da questo punto di vista, trattandosi di un organo, diciamo, democratico, la maggioranza ha votato un certo tipo di comportamento e quello deve diventare il nuovo dogma. Non può permettersi una persona come Stark di uscire e accampare le proprie ragioni. Può uscire dicendosi dissenziente su un certo tipo di comportamento, ma io penso che anche la Germania a quel punto avrebbe dovuto dire: se tu esci dal Consiglio devi uscire per ragioni tue, ma non puoi minare il lavoro che hanno fatto i tuoi colleghi o che tu comunque hai contribuito a fare. Questo è un esempio. E la Merkel è più in generale l'allenatore di questa squadra di campioni tedeschi, che ha fatto sì che tutti si potessero permettere di pensare di essere immuni da ogni critica e di poter invece criticare chiunque altro. La Germania per prima ha attaccato la Grecia, ha voluto una ristrutturazione del debito con il coinvolgimento dei privati, un coinvolgimento che avrebbe potuto far risparmiare alla Grecia 36 miliardi di euro. Oggi forse ci siamo, nel frattempo la gestione ha fatto sì che probabilmente ne abbiamo persi circa 600 di miliardi di capitalizzazione delle banche a causa dell'incertezza di questo tiremolla che la Germania in primis e la Merkel come sua responsabile ha generato in tutto questo periodo. La cosiddetta Troica, la missione congiunta della Commissione europea, del Fondo monetario internazionale e della Banca centrale, non ha ancora sciolto il dubbio sulla possibilità di fornire ancora aiuti ad Atene. Per mostrare la sua buona volontà, intanto il governo greco ha annunciato una nuova supertassa sulla proprietà immobiliare. Ce la spiega Vittorio Darold, che segue la Grecia per il Sole 24 Ore. La Troica deve decidere di dare 8 miliardi entro settembre, che è la rata prevista del primo piano ancora che abbiamo in vigore, che è di 110 miliardi circa. Questi 8 miliardi però sono previsti che vengano concessi solo nel rispetto del calo del deficit. Il deficit purtroppo invece di calare è aumentato, dal 7 è andato all'8,7. Quindi il problema è che la Troica ha sbattuto la porta e se n'è andata dicendo: finché non rimettete i conti in ordine noi non vi diamo gli 8 miliardi. Senza gli 8 miliardi in pochi giorni la Grecia non paga gli stipendi e non paga più i bond, quindi è default. Allora cosa ha fatto il nostro primo ministro Papandreou? È andato a Salonicco, che è appunto la seconda città più importante dal punto di vista economico, e ha lanciato il messaggio: noi non vogliamo uscire dall'euro, noi rispetteremo i patti, e quindi ha detto: noi faremo quello che abbiamo promesso, però mancano i soldi. E quindi si è inventato, ha tirato fuori dal cilindro, una supertassa patrimoniale sulla casa. In pratica chi ha una casa in una buona zona di Atene, diciamo un quartiere bene, paga 10 euro a metro quadro, quindi 100 metri, 1000 euro entro dicembre. Questa è la supertassa che ha inventato. C'è anche una nuova manovra da 2 miliardi di euro annunciata, no? Sì, esattamente questo, è proprio l'incasso, l'incasso complessivo del patrimoniale. Poi ci sono naturalmente i soliti aumenti di sigarette, carburanti, tanto per arrotondare, ma insomma arriviamo ai 2 miliardi che sarebbero quello necessario per avere la famosa tranche appunto di 8 miliardi. Come fare a incassare rapidamente? Hanno pensato di utilizzare le bollette della luce, e quindi faranno appunto una cosa molto semplice: ai vari proprietari che hanno un contatore arriverà già il conto già fatto per pagare la supertassa. Presto fatto i lavoratori. Questa è carina, cioè loro non andranno semplicemente sulla bolletta. Esattamente, loro arriverà a perché casa. Perché insomma, è difficile abitare in una zona di lusso e non avere l'elettricità. Esattamente. Tutto. E quindi chi ha praticamente un contatore legato a una casa, un immobile, perché pagheranno tutti gli immobili, dal 5 euro al metro quadro, diciamo le più modeste, fino al 10 di quelle più agiate, e tutte quante quindi pagheranno. Questo sistema è molto pratico, salvo che i sindacati appunto dell'Enel greca, la DIPA, hanno già detto che loro non fanno i cowboy, gli sceriffi per conto del governo, e quindi cominceranno a esserci dei problemi. L'avversità storica tra Grecia e Turchia è ben nota. Farà quindi sicuramente uno strano effetto ai greci vedere che la Turchia ha chiuso il secondo trimestre con una crescita del PIL dell'8,8%. Per i conti che ha la Turchia potrebbe quindi entrare nell'euro, sentiamo sempre Vittorio Darold. la Turchia ha i conti in ordine, quindi ha messo in ordine i propri conti e quindi potrebbe avere, praticamente potrebbe entrare nell'euro, perché ha tutti, figurati se esce la Grecia entra la Turchia nell'euro, non oso pensare cosa succede lì. E dopodiché vende e esporta una buona industria manifatturiera, viene appunto a essere una delle migliori dell'area, e si è spostata, quando ha visto che l'Europa cominciava a avere dei rallentamenti, verso il Medio Oriente e l'area, diciamo, asiatica, e quindi è diventato un vero gigante economico dell'area, quindi ha fatto una mossa molto azzeccata. Veniamo ora alle banche francesi, protagoniste di cali vertiginosi fin dall'inizio della settimana e al centro di timori poi confermati dal downgrade di Société Générale Crédit Agricole da parte dell'agenzia di rating Moody's. Che problemi ci sono? Sentiamo la spiegazione di Marco Moussanet, corrispondente da Parigi del Sole 24 Ore. Sicuramente le banche francesi sono in una situazione problematica, sono nel mirino in realtà da ormai un mese circa. Tutto è cominciato con l'annuncio del profit warning di Société Générale il 3 agosto, quando appunto il presidente UDA ha ammesso che l'obiettivo dei 6 miliardi di utili nel 2011 non sarebbe stato raggiunto, e da lì in poi effettivamente la situazione è stata molto problematica. Nell'ultimo mese Société Générale ha perso il 22%, ma BNP ha perso il 24%, Agricole il 33%. Ma lì ci sono in realtà, sì, un massacro, anche se in realtà c'è, la situazione è un pochino diversa tra banca e banca. Cioè, per BNP Paribas e per Crédit Agricole c'è oggettivamente un problema legato alla forte esposizione sul debito pubblico italiano. Ovviamente le due banche sono fortemente presenti in Italia, e questa è la ragione, una attraverso BNL, l'altra attraverso Cariparma. BNP Paribas ha un'esposizione sul debito italiano, secondo gli stress test di fine luglio, di 21 miliardi e Agricole di circa 9. E quindi mi sembra abbastanza evidente che il problema, la fragilità secondo la quale i mercati valutano le due banche è legata sostanzialmente alla forte esposizione sul debito italiano. Per Société Générale è un pochino diverso, perché la banca è relativamente poco esposta, anzi direi decisamente poco esposta sui debiti sovrani. Sono complessivamente 4 miliardi e qualcosa a oggi, insomma alla fine della scorsa settimana, con un'esposizione sulla Grecia intorno a 1 miliardo, sull'Italia intorno ai 2, quindi insomma il problema non è quello. Il problema è che la banca non si è scrollata di dosso la fama di banca ad alto rischio sul fronte dei derivati che si è creata con lo scandalo Kerviel del 2009. Lunedì anche l'Italia si è accodata ad altri 7 paesi europei per chiedere che il budget di Bruxelles venga ridotto, con una riduzione fra i 50 e i 100 miliardi. La spesa dell'Europa si aggirerebbe intorno ai 1.000 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. Con quale cifra contribuisce l'Italia e perché ha avanzato questa richiesta? Sentiamo il sottosegretario agli esteri Alfredo Mantica. Credo sia una bella scommessa, non saprei dirle se sono più a Roma che a Bruxelles, certamente anche a Bruxelles ce ne sono molti, insomma. E visto che lei ha una grossa familiarità con Bruxelles, lei quando va che cosa vede? Perché da noi si è molto polemizzato sui costi della politica, la buvette, il barbiere della Camera, del Senato, il menù, insomma cos'è la cosa che la impressiona di più quando va a Bruxelles? Che c'è un apparato a Bruxelles di funzionari e di strutture che non è assolutamente indifferente. Noi ci lamentiamo dei ministeri italiani, credo di poter dire che l'Unione Europea è molto allineata con i ministeri italiani. È molto allineata o è peggio? Ah, questo non lo so, bisogna mettersi a fare i conti. E anche per questa settimana, con Economia in Europa, è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.